Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Uno dei più bei libri di Isaac Asimov, il grande scrittore di fantascienza, è senz'altro Destinazione Cervello. Racconta di un gruppetto di scienziati che vengono miniaturizzati a bordo di un piccolo sommergibile e iniettati attraverso il circolo sanguigno nel cervello di un fisico sul punto di morte per carpirne gli ultimi pensieri. Insomma, per quanto lontanissimi dall'essere in grado di leggere il pensiero, c'è molto che abbiamo imparato sul cervello da quando fu scritto quel libro. Per esempio, abbiamo appreso molto sull'interpretazione dei segnali elettrici emessi dal cervello, il cosiddetto elettroencefalogramma. E da tempo sappiamo che stimolando punti specifici del cervello si può indurre il movimento di un muscolo, la visione di un colore, persino l'emersione di un ricordo. Tutto ciò avrebbe un potenziale gigantesco in campo medico, ma per tradurre queste conoscenze in applicazioni, quello che serve, che a lungo è stato considerato una specie di santo graal della bioingegneria, è una cosiddetta interfaccia neurale, un dispositivo in grado di interagire direttamente col cervello. Ebbene, sembra che siamo a un passo da questo risultato grazie alle ricerche di una azienda italiana, Abimedica, di cui abbiamo in linea il direttore scientifico Pantaleo Romanelli. Buonasera Romanelli. Salve, buonasera. Allora, Romanelli, ci descriva questo miracoloso dispositivo. Sì, beh, questo è un apparecchio estremamente innovativo perché riesce a trasmettere in modalità wireless, quindi senza fili, i segnali elettrici cerebrali, oppure riesce ad inviare sempre in modalità wireless stimoli elettrici a precise zone del cervello. In questo modo noi abbiamo un apparecchio che dispone di due vie, una verso il cervello e una dal cervello, quindi noi possiamo monitorare l'attività cerebrale, quindi verificare per esempio se in una precisa zona del cervello si originano crisi epilettiche, possiamo saperlo immediatamente, il medico può essere avvertito, l'apparecchio in pratica può trasferire il segnale direttamente su un iPad fornito al medico oppure ad un centro di servizi, quindi possiamo immaginare un futuro in cui per esempio il paziente che soffre di crisi epilettiche si ritrova con l'ambulanza sotto casa ancor prima che i familiari si siano accorti della crisi in arrivo che sta arrivando, certo, oppure sì, magari viene sventata questa crisi, oppure perché la crisi c'è la possibilità addirittura che questi apparecchi, stimolando il cervello, blocchino la crisi sul nascere, è vero? Esattamente, noi adesso siamo in una fase di sviluppo in cui l'apparecchio è in grado di stimolare il cervello su precisa indicazione del medico, quindi io posso dal mio studio a Milano inviare un segnale all'apparecchio che è impiantato per esempio in un animale di laboratorio presso il nostro centro di ricerca Grenoble in Francia, e a distanza di centinaia di chilometri io posso generare movimenti. Letteralmente, per esempio, far muovere le dita, no? Può far muovere le dita questo animale. Sì, ovviamente questo ha un'importanza enorme per la possibilità di permettere ad un robot di replicare i movimenti pensati dalla corteccia motoria. Per esempio, un paziente paralizzato può utilizzare questo apparecchio per trasferire i piani motori, le ideazioni del movimento verso una protesi robotica, verso un esoscheletro che poi permetterà al paziente di muoversi in maniera estremamente raffinata. Ecco, la stessa cosa si può immaginare per una persona che ha perso un arto, a questo punto il cervello può mandare dei comandi. Ecco, sì. Senta, però lei non mi ha risposto alla domanda, non mi ha descritto questo dispositivo. In parole povere, si tratta di una scatolina in materiale altamente biocompatibile che permette il passaggio delle onde radio. Ecco, c'è una scatolina grande come un pollice, per intendersi, che contiene tutta l'elettronica. Molto più piccola, misura poco più di un centimetro, sì, per lato. Da questa scatolina origina un foglio di elettrodi, un foglio sottilissimo dello spessore, sì, di pochi micron. All'interno di questo foglio sono disposti degli elettrodi di platino. E questo foglio viene appoggiato sulla superficie del cervello, quindi della corteccia cerebrale. Nella regione di interesse. Noi per esempio l'abbiamo impiantato sulla regione motoria, la regione che origina i movimenti. Ecco, senta, sì, le applicazioni, abbiamo detto, sono moltissime. Le chiedo a questo punto cosa manca per arrivare all'uomo, perché questo apparato ormai funziona, voi l'avete tenuto impiantato in un primate per oltre 6 mesi, che è una roba straordinaria rispetto al passato, sì, sì, e si carica dall'esterno, questo è importantissimo, cioè un apparecchio che può essere impiantato in modo permanente. Ora, Che cosa manca per arrivare all'uomo? Mancano i test di biocompatibilità. Dobbiamo dimostrare che l'apparecchio può rimanere impiantato per fino ad un anno o oltre senza causare alcun tipo di reazione cicatriziale o infiammatoria, e a quel punto potremo partire col trial clinico. Va bene, grazie Romanelli, avanti così insomma. Grazie mille, è stato un piacere. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.